scuola. Conservare l'integrità del nucleo familiare. Firma il contratto, non farti pregare. Se vuoi far parte delle persone serie. E cominciamo questa trasmissione, come sempre, insomma, noi dobbiamo dire che di carne al fuoco ce n'è tanta. La scuola è diventata un po' protagonista. Non poche ombre e qualche luce in questi ultimi tempi per l'attenzione che il governo ha voluto dedicarle nella maniera ovviamente che lo contraddistingue. Passiamo un po' a dare però i nostri numeri. Sì, vi diamo i nostri contatti. Prima di tutto no, aspetta, no, no. La libertà che ti abbiamo fatto avere, perciò adesso non... E vi diamo i nostri contatti, prima di tutto il blog https://oradibuco.noblogs.org, la mail oradibuco@ondarossa.info e poi il nostro numero di telefono per chi di voi voglia intervenire, ed è sempre una cosa gradita poter confrontarsi con qualcuno direttamente in trasmissione, 06 49 17 50. Allora, oggi volevamo cominciare a parlare un po' degli incontri, delle mobilitazioni che ci sono state in questa settimana, intesa come dall'ultima trasmissione fino ad oggi. E c'è stata nei giorni scorsi un'assemblea del coordinamento scuole di Roma in cui è stato prodotto anche un comunicato. Si è deciso comunque di continuare la mobilitazione e di dare anche una caratterizzazione nettamente antifascista, questo perché sappiamo quello che è successo nei giorni scorsi in alcune scuole romane, queste irruzioni, non so come chiamarle altrimenti, di fascisti all'interno delle scuole, e mi pare di ricordare il Giulio Cesare, il Galilei fra le altre, e quindi insomma ci sembrava importante all'assemblea della settimana scorsa del coordinamento ribadire questa discriminante. E l'assemblea ha deciso di partecipare, l'ha fatto con uno spezzone alla manifestazione del 27 ottobre, e magari chi c'è stato di noi, chi c'è stata in questo caso, potrà dirci un po' le impressioni rispetto sia a questo spezzone sia magari a quello che può avere significato o meno la partecipazione in quel contesto. Poi l'assemblea si è nuovamente riunita a livello più operativo e si è riunita ieri al liceo Virgilio e ha deciso di indire una manifestazione il 10 novembre assolutamente autoconvocata, e all'assemblea erano presenti anche studenti e studentesse, e il 10 è un sabato, quindi la manifestazione si dovrebbe svolgere di sabato pomeriggio. E poi c'è anche un'attenzione a questo sciopero europeo, che però è tutto un po' da vedere e da definire, del 14 novembre, e al quale hanno per adesso dato la loro adesione i COBAS. E i punti della piattaforma che comunque questo coordinamento si è dato adesso è un no deciso alla PREA, un accento molto forte al contrario al decreto di stabilità, che fra l'altro ha al suo interno il famoso aumento dell'orario di lavoro dei docenti di medie, inferiori e superiori, no al concorso, no al precariato, no agli accorpamenti. È un po' qualcosa che va al di là di quello che purtroppo in alcuni documenti di scuole romane, non solo, è visto come l'unica, sembra, anche se mi sembra di poter dire a livello minoritario, l'unica piattaforma su cui alcune scuole si stanno muovendo, che è quella appunto del rifiuto delle 24 ore, con tutto il discorso che conosciamo bene, perché il lavoro dei docenti e delle docenti non si limita certamente alle 18 ore frontali in classe e così via. Però, e questo è emerso anche dalle riunioni del coordinamento e noi lo condividiamo, ci sembra che sia Questo è assolutamente un obiettivo minimo che può anche sembrare, forse lo è, corporativo rispetto a una classe docente, se vogliamo chiamarla così, che rispetto a tutto quello che è passato, e non solo nell'ultimo anno, non solo col governo Monti, ma insomma già dai governi di centrosinistra e poi da quelli di centrodestra, tutto quello che è passato, voglio dire, non solo rispetto alla scuola ma anche a tutto il mondo del lavoro. In particolare molti interventi in questa riunione, quella precedente a questa che vi ho detto più operativa, rimarcavano proprio il fatto, centravano proprio l'attenzione sul fatto che questo famoso comma del decreto di stabilità in realtà sta all'interno di un attacco più complessivo al lavoro nel nome della produttività, quindi lavorare di più, lavorare di meno, cioè lavorare in meno ma lavorare di più, che è quello che poi sta passando tranquillamente. E non solo questo, ma anche la completa distruzione di ogni tipo di contrattazione collettiva, tutto quello che si dice rispetto infatti a questi provvedimenti che dovrebbero passare, è che tutti i contratti che sono contrari a queste norme sono derogati, quindi insomma questo è evidente che è la deregulation totale, la giungla totale all'interno dei possibili diritti che ci siamo conquistati e conquistate. E diciamo, riprendendo un po' dall'inizio questa bella sintesi che tu hai fatto, a me sembra sinceramente, avendo anche partecipato al Do Monti Day, di poter dire che purtroppo una buona parte dell'adesione degli insegnanti a quelle che sono le forme di protesta, a quelle che sono le forme di lotta, è tristemente, per quanto diciamo legittimamente, determinata dall'attacco che tutti sentono portato a se stessi, alla categoria, dal decreto di stabilità, e che effettivamente non, in molti casi non si riesca ad andare molto oltre, e che obiettivamente ci sia poca consapevolezza nella classe insegnante di quello che porta e porterebbe il decreto Aprea. Parlo a titolo personale, alcuni colleghi non conoscono nemmeno l'esistenza del decreto Aprea. E tornando alle forme di mobilitazione che ci sono state, io sono stata sia al No Monti Day sia all'appuntamento del giorno successivo, cioè il flash mob davanti al Ministero della Pubblica Istruzione, e sinceramente nell'un caso e nell'altro sono rimasta piuttosto colpita, prima di tutto dalla quantità della partecipazione e poi dalla qualità. Lo spezzone della scuola era abbastanza nutrito, ma sinceramente ho riconosciuto i visi e ho diciamo interloquito con molti colleghi precari fondamentalmente, e questo da una parte è stato un piacere, perché si è riusciti anche nei comizi finali a mettere l'accento sull'altro grosso problema della scuola di questi tempi, che è il cosiddetto concorsino, e che obiettivamente taglia posti di lavoro e che restringe le possibilità di accesso a una stabilizzazione da parte di molti colleghi precari. Ma comunque, al di là di questo, c'era la partecipazione di insegnanti strutturati, c'è stata, ma molto, almeno a mio modo di vedere, per la mia sensibilità, orientata rispetto al problema delle 24 ore, delle 24 ore di cattedra. Il giorno dopo, al flash mob, è stata un'iniziativa anche diciamo relativamente partecipata, però francamente l'atmosfera era un pochino quella della festa di compleanno, era tutto un po' un ritrovarsi, un abbracciarsi, un salutarsi. Per carità, abbiamo alzato le nostre penne rosse, i registri per chi li aveva, i libri eccetera, però il discorso veramente non è andato oltre il fatto dell'aumento di un terzo dell'orario di lavoro. E sinceramente a me sembra che questo porti sposti anche un pochino la riflessione. È vero quello che dicevi tu, il problema è l'attacco complessivo al lavoro, e il problema è quello di questo accento veramente pazzesco e sovrabbondante rispetto al problema della produttività, ma il problema è anche quello di riuscire a elaborare, a inventarsi e a portare avanti delle forme di lotta che siano efficaci, che siano partecipate, che siano determinate, determinate da parte delle persone che sono in prima che sono diciamo coinvolte in prima persona, perché per esempio al No Monti Dei c'erano, sembrava una passeggiata per certi versi, pochi slogan lanciati solamente da chi aveva il microfono in mano e più che altro anche nei discorsi generali captati una grossa attenzione a quella che è la tematica centrale della riflessione degli insegnanti di questi giorni, e cioè l'accento su quanto si lavora al di fuori delle 18 ore, che per carità è un punto di vista legittimo e che conosciamo tutti, ma si tratterebbe, almeno a mio modo di vedere, di allargare un pochino la visuale e di diciamo ampliare al problema dell'attacco al mondo del lavoro, al modello di scuola che ci si propone attraverso il decreto Aprea e più complessivamente a questo problema dell'efficienza, che è in qualche modo lavorare in meno e lavorare di più, che è quello che viene portato avanti. Sì, insomma questo sicuramente ha ingenerato anche la perplessità negli studenti e nelle studentesse, no? rispetto a questa mobilitazione. E cercheremo poi fra un po' di sentire anche uno studente del liceo Virgilio, che mi sembra fra l'altro ieri fosse anche all'assemblea, per sentire un po' qual è l'umore insomma di studenti e studentesse. A questo proposito poi magari riusciamo anche a leggere qualche brano di un articolo del Manifesto che parla proprio di questo. Insomma, la situazione non la vogliamo dipingere in maniera così esageratamente ottimista, perché insomma è vero che quello che noi poi auspicavamo in questa missione, si parla di scuola, ma bisogna insomma stare attente a come di scuola anche si parla e quali sono soprattutto un po' gli obiettivi, no, di queste mobilitazioni, perché il rischio, questo l'avevamo detto già qualche settimana fa e poi puntuale è arrivata la conferma, è che magari anche se al momento sono stati fatti degli emendamenti al decreto di stabilità, la parte però che riguarda la scuola, quindi gli inidonei, poi ne parliamo, appunto le 24 ore frontali e altri tipi di queste cose, non sono stati per nulla toccati. E una settimana fa circa, forse qualcosa di più, il sottosegretario all'istruzione Marco Rossi Doria aveva rilasciato un'intervista a Repubblica in cui si diceva possibilista, fra l'altro lui è un maestro, anche se magari ovviamente adesso non esercita, e quindi lui rimarcava che i maestri già le fanno 24 ore, in realtà sarebbero 22 adesso più una di coordinamento, perché ci sono due o più maestri e maestre per classi col tempo pieno e non solo. Però è evidente che da quel punto di vista forse non poteva dire niente di diverso, nel senso che ha detto che comunque questa cosa si può rivedere, limare eccetera, ma comunque è l'inevitabile conclusione, cioè si arriverà a qualcosa del genere. Infatti diciamo il problema è che bisogna stare attenti nelle forme di mobilitazione e mobilitare veramente tutta la nostra sensibilità per evitare che si vengano a creare delle spaccature anche profonde. Sono veramente felice di poter sentire, se riusciamo più avanti, lo studente del Virgilio, per riuscire a capire come in certe scuole romane venga vissuta la mobilitazione degli insegnanti e come se si riesca a convergere su posizioni con quello che è con il movimento studentesco. Però per quello che io riesco a capire, mi pare che in alcuni casi si registrino delle spaccature forti tra la posizione degli insegnanti e la posizione degli studenti, che in maniera assolutamente sorprendente per quanto mi riguarda sentono o possono sentire, in qualche caso anche orientati secondo me, quelli che sono il blocco del POF, tempo più o meno indeterminato come una presa di posizione che va contro, che lede i propri interessi, che li priva di qualcosa di legittimo e che li costringe in qualche modo a frequentare una scuola che dà un'offerta culturale obiettivamente minore. Il discorso qui si fa piuttosto complesso perché viene a rientrare in questo discorso quello che è il modello culturale che noi abbiamo subito in tutti questi anni, in questi anni di riforme della scuola, e viene a toccare anche un problema di atteggiamento del corpo docente nei confronti degli insegnanti, che è sempre stato un atteggiamento buonista, molto assistenzialista, in cui l'insegnante si è ricavato una figura un po' da missionario, in cui rispetto alla quale non era così importante quella che era la sua dimensione culturale o la sua dimensione intellettuale, ma era molto importante l'atteggiamento educativo e comprensivo nei confronti dei ragazzi. E ecco, sinceramente c'è la necessità, almeno dal mio punto di vista, di presentare e di rivendicare agli insegnanti prima di tutto la figura il ruolo di lavoratore e conseguentemente di portare avanti anche nei confronti dei ragazzi un atteggiamento aperto, comprensivo, e un atteggiamento che permetta loro di capire fino a che punto sono lesi da questi provvedimenti e dalla privatizzazione stessa della scuola. E prima di mandare un breve stacco volevo specificare, perché bisogna mai dare per scontato, che per POF si intende il piano dell'offerta formativa, cioè tutta quella serie di attività che vengono svolte all'interno di una scuola al di là delle ore di lezione, quindi sono per esempio progetti vari, lingua, che ne so, quelle ogni scuola veramente ce n'ha tanti, eppure qui ci sarebbe molto da discutere sulla loro vera utilità, perché poi si decide che questa è la cifra che viene stanziata e poi si inventano i progetti, diciamolo pure, insomma, con decisione. Poi sono i viaggi sotto forma di scambi culturali o di viaggi di istruzione, pure questo è un altro capitolo che criticarlo rischia di essere impopolare, però magari prima o poi l'affronteremo. E oppure sono, insomma, i corsi di recupero, pure questo è un altro discorso, cioè si sa che da tempo non ci sono più gli esami di riparazione, ma parecchio tempo che non ci sono, non si viene più rimandati a settembre, c'è questo rinvio, questo giudizio sospeso come viene chiamato, e da qualche anno le scuole organizzano o con docenti interni o anche esterni questi corsi di recupero che durano 15 di giorni, sono fatti a volte a luglio e a volte a fine agosto, inizio settembre, e in cui si dovrebbero poi recuperare carenze accumulate in un anno. Insomma, al di là di questo discorso, ecco, queste sono tutte attività, insieme anche per esempio al ricevimento delle famiglie, più o meno settimanale o bimensile, e quindi queste cose sono state sospese, e qualcuno l'ha sospese per un po', qualcuno l'ha sospese per tutto l'anno, poi ci sono le vecchie funzioni aggiuntive, che non mi ricordo adesso come si chiamano, le funzioni strumentali, perché uno dei problemi della scuola italiana è che ogni tanto cambiano nome alle cose, ma le cose poi rimangono le stesse, cioè gli cambiano soltanto il nome. E quindi adesso va bene, poi entreremo un po' nel merito, adesso cerchiamo di mandare un brano. Ragazzo mio, un giorno ti diranno che tuo padre aveva per la testa grandi idee, ma in fondo poi non ha concluso niente. Non devi credere, no, vogliono far di te un uomo piccolo, una barca senza vela, ma tu non credere, no, che appena s'alza il mare gli uomini senza idee per primi vanno a fondo. Ragazzo mio, un giorno i tuoi amici ti diranno che basterà trovare un grande amore e poi voltar le spalle a tutto il mondo. No, no, non credere, no, non metterti a sognare lontane isole che non esistono. Non devi credere, ma se vuoi amar l'amore, tu non gli chiedere quello che non può dare. Ragazzo mio, un giorno sentirai dir dalla gente che al mondo stanno bene solo quelli che passano la vita a non far niente. No, no, non credere, no. Allora, pronto, ci sei? Sì, pronto. Allora, abbiamo al telefono un compagno studente del Virgilio, che fra l'altro è uno dei curatori della trasmissione Region Air, che si occupa appunto della scuola dal punto di vista degli studenti. Allora, voi avete partecipato, insomma, a questa assemblea che c'è stata ieri e non solo, mi sembra. Quali sono le vostre conclusioni, le vostre impressioni? Ma dunque, innanzitutto questa assemblea era stata lanciata appunto dal collettivo del Virgilio insieme a anche i docenti dello stesso istituto. Era un'assemblea pubblica in continuità con tutta l'altra serie di iniziative tra flash mob, assemblee eccetera, che c'erano state nelle settimane passate, ci sono ancora questa settimana e ci saranno in futuro anche nelle altre scuole romane appunto. E era un'assemblea per parlare di scuola, perciò diciamo che ci sono stati diversi interventi sia da professori che da studenti a livello molto teorico su quello che sta succedendo all'istruzione pubblica per capire meglio perché e come combatterlo. E dopodiché la conclusione è stata che sicuramente non è con un solo incontro isolato che si può, diciamo, decidere di fare qualcosa per combattere questa distruzione che ormai da anni ci colpisce, perciò ci siamo riconvocati a lunedì prossimo al Liceo Amiani per appunto continuare la discussione e capire come proseguire e anche praticamente come mobilitarsi. Quindi con le stesse caratteristiche, docenti e studenti o no? Sì. Sarà comunque un'assemblea pubblica a tutte le componenti della scuola e anche naturalmente al pubblico. La direzione che sta prendendo l'assemblea e i ragionamenti che sono stati fatti è che sia giusto ragionare su quello che il governo sta facendo sulla scuola, Italia e tutto quanto, però in realtà non c'è più quella dinamica per cui si scende in piazza e si dice: caro ministro, ci serve questo, questo e quest'altro, perché abbiamo molto chiaro che, appunto, come abbiamo detto molte volte, è il governo delle banche, e alle banche sicuramente non interessa fare il bene della scuola, perciò sicuramente è giusto analizzare provvedimenti del governo, però la risposta poi sarà in realtà un'iniziativa più bassa, diciamo, a livello istituzionale, organizzata appunto di queste assemblee di arricchimento culturale, in questo caso politico, ma poi ci saranno altre iniziative che possono essere i cineforum vari che ci sono nelle aule suggestite e quant'altro che si progetterà nel futuro, perciò ma diciamo voi, che la risposta per adesso è in questo senso. Voi, diciamo, rispetto alle mobilitazioni adesso dei docenti in particolare, che pensate, cioè, che possano essere poco incisive, avete idea anche rispetto a, diciamo, all'assenza, lo possiamo dire abbastanza tranquillamente, sì, del corpo docente nel suo complesso rispetto all'attacco al mondo della scuola che, insomma, data da diversi anni e sul quale invece gli studenti e le studentesse hanno sempre avuto molto da dire? Dunque, noi pensiamo innanzitutto che è comunque positivo il fatto che anche il corpo docenti si stia cominciando a muovere, comunque un po' di movimento lo sentiamo, e credo che finora non siano state portate avanti delle iniziative incisive. Sì, sicuramente flash mob, assemblee eccetera sono un inizio molto molto comunicativo, però immagino che nel futuro con una crescita collettiva si possa arrivare a delle iniziative appunto molto più incisive e forse risolutive. Sì, per concludere volevo ricordare, rispetto al fatto di chiedere alle istituzioni di spingere sui sindacati, che si è verificata una cosa che è anche del comico, ovvero ieri c'è stata questa intrusione di un fascista all'interno del liceo Tasso, i giornali la riportano, ha dato quello che ho capito un cazzotto, due cazzotti a un ragazzo del collettivo, ma a prescindere da questo c'è un comunicato dei giovani comunisti che c'è oggi sulla stampa che chiede al sindaco Alemanno di intervenire, cioè io la trovo un po' comica questa cosa, non so te, ecco. Ma sì, io ho diciamo esperienza abbastanza diretta in quel senso, nel senso che quando ci troviamo fascisti fuori scuola noi abbiamo l'abitudine che la preside chiama la polizia, arriva la polizia e allora spunta fuori il figlio del nostro sindaco che parla con i carabinieri e dice abbiamo qualche problema, no? Perché beh, sennò però è comprensibile che la preside, cioè comprensibile, cioè lo fanno, come diceva quello, chiamano, sì, sì, però no, che cioè, i giovani comunisti si raccomandino Alemanno contro i fascisti, cioè c'è un po' di confusione, un cortocircuito mentale, va bene? Sì, sì. Va bene, grazie allora. Grazie a voi. Grazie, ciao ciao. Se volete aggiungere qualcosa, forse volevi leggere qualche passo di quell'articolo, ci prendiamo un minuto, rimandiamo quella bellissima canzone di Luigi Tenco che abbiamo interrotto per dare spazio alla telefonata, che anche se ha questo inizio apparentemente paternalistico, ragazzo mio, invece insomma è tutt'altro. Ragazzo mio, un giorno ti diranno che tuo padre aveva per la testa grandi idee, ma in fondo poi non ha concluso niente. Non devi credere, non vogliono far di te un uomo piccolo, una barca senza vela, ma tu non credere, no, che appena s'alza il mare, gli uomini senza idee, per primi vanno a fondo. Ragazzo mio, un giorno i tuoi amici ti diranno che basterà trovare un grande amore e poi voltar le spalle a tutto il mondo. No, no, non credere, no, non metterti a sognare lontane isole che non esistono. Non devi credere, ma se vuoi amar l'amore, tu non gli chiedere quello che non può dare. Ragazzo mio, un giorno sentirai dir dalla gente che al mondo stanno bene solo quelli che passano la vita a non far niente. No, no, non credere, no, non essere anche tu una chiappa nuvole che sogna di arrivare. Non devi credere, no, no, no, no, non invidiare chi vive lottando invano col mondo di domani. E abbiamo citato prima questo articolo del Manifesto di oggi, la necessità di un'istruzione comune di Paolo Vermaglione, che fa un punto con diciamo un'ottica interessante su quanto abbiamo detto fino adesso, e parte l'articolo ovviamente da quella che sembra essere in qualche modo la reazione eccessivamente flebile degli insegnanti della scuola pubblica a quello che è l'attacco portato attraverso proprio lo straccio del contratto collettivo nazionale di lavoro, e diciamo si interroga fondamentalmente sulle ragioni che a mio modo di vedere identifica in una maniera molto puntuale. Dice appunto: non sembra di aver visto fiorire occupazioni con a capo docenti di scuola secondaria, e non sembra in questi anni ultimativi per l'istruzione pubblica di aver visto in giro fervere pratiche di conflitto animate da docenti. Da tempo ormai contro la rappresentanza degli interessi dei docenti e contro politiche scolastiche di puro comando, oggi invocate dai difensori della buona cittadinanza contro i cattivi e i violenti, siano essi studenti oppure precari oppure esodati, il corpo docente ha disertato. Lo ha fatto contro una forma truffaldina di rivendicazione dei diritti che in realtà ha nascosto neanche troppo bene la cogestione delle istruzioni scolastiche, privando gli insegnanti di una reale forza antagonista, regalando loro mance stipendiali formattate per contratto contro il silenzio e l'acquiescenza. E qui il riferimento mi sembra chiaro a quelle che sono, per esempio, mi spiace definirle così, ma le dazioni di denaro che i dirigenti in molti casi fanno attraverso l'affidamento delle già citate funzioni strumentali, che sarebbero, diciamo, funzioni strumentali finalizzate alla realizzazione del POF, e che dovrebbero quindi agevolare la realizzazione di alcuni aspetti del POF, del progetto dell'offerta formativa di cui si parlava prima, ma che in realtà molto spesso si traducono semplicemente in fatti formali, in diciamo pratiche formali ripetute di anno in anno, senza che ad esse corrisponda una reale riflessione e senza che si incidano realmente sulla vita della scuola. E diciamo questo nell'ottica di chi scrive di chi scrive l'articolo è evidentemente inteso come una sorta di mancia data in cambio di una rinuncia a quello che è l'aspetto della partecipazione dei docenti e a quella che è la forza potenzialmente antagonista dei docenti. E evidentemente è chiaro che anche nell'ottica di chi scrive, il definanziamento progressivo di scuole e università con i decreti Gelmini non sono stati che gli effetti collaterali dello smantellamento sistematico del welfare della formazione in atto in questo paese medievale almeno da 30 anni. E le proposte aberranti di Profumo non sono altro che la terribile conseguenza di quelle politiche. Di fronte a tutto questo, oggi si invoca la partecipazione a un movimento di contrasto a queste proposte, puntando il dito contro il corporativismo, la frammentazione e l'individualismo insito nel ruolo docente, dimenticando però la sistematica opera di delegittimazione verso quelle pratiche di democrazia reale che i fautori della rappresentanza, d'accordo con i dirigenti scolastici e l'immancabile Partito di Repubblica, hanno fomentato. E quindi diciamo l'articolo si conclude in una maniera che ritorna un pochino alla riflessione che facevamo prima sull'esigenza quindi di costruire altre forme differenti di contrasto che possano coinvolgere collettivamente e in qualche modo in una maniera partecipata, esulando da quello che è il concetto della rappresentanza per come è attualmente inteso, iniziative partecipate di istituzioni del comune. E che cosa significa questo in concreto, conclude Vermaglione? Significa occupare la pubblica istruzione, accamparsi dentro le scuole insieme con gli studenti e con i genitori, rivendicare oltre alla rappresentanza degli interessi una modalità davvero alternativa di fare scuola e farla finita con i voti, con le gerarchie, con le punizioni, con i divieti e con gli arbitri dei dirigenti. E obiettivamente mi sembra che l'ottica vada proprio a convergere nella direzione della ricerca di forme nuove, forme incisive, forme collettive e coinvolgenti di visione della scuola, di protesta, di lotta. Tra l'altro questa mobilitazione sulle 24 ore taglia fuori, e non a caso c'è anche uno sciopero convocato per il 24 novembre che è sabato, taglia fuori la scuola dell'infanzia e la scuola elementare, che sono state attaccate in modo brutale da tutte le riforme scolastiche, ripetiamo, di governi di centrosinistra e di centrodestra, per esempio con gli accorpamenti, con l'innalzamento del numero degli alunni e delle alunne per classe. Gli accorpamenti sono stati fatti in maniera brutale sulle scuole elementari e dell'infanzia, e con ovviamente poi riduzione anche dei posti di lavoro. Allora, in quel caso le forme di contrasto, le forme di opposizione, le forme di lotta siano state altre, siano state più partecipate e sinceramente siano state più consapevoli. Forse questo succede perché siamo in Italia e tutti abbiamo sensibilità nei confronti dei bambini e abbiamo meno sensibilità nei confronti del mondo dell'istruzione, della cultura e della consapevolezza, però la sensazione è che quel tipo di partecipazione fosse più diffusa anche in rapporto alla qualità dell'attacco che veniva portato a allora e oggi. Va bene, adesso prima di passare alla bella trovata della spending review e del decreto di stabilità, che è riuscito in un colpo solo a danneggiare docenti e personale ATA, ancora un pochino di musica. Bene, torniamo ai microfoni dagli 87 e 9 di Radio Onda Rossa. Questa è l'ora di buco. Lavoratori e lavoratrici della scuola parlano di scuola e con studenti, studentesse e genitori possibilmente. Il telefono è lo 06 49 17 50. Noi ci riproponevamo di parlare del personale ATA, cioè per quello che una volta si chiamava non docente. La sigla ATA sta per amministrativi, tecnici e ausiliari. E quindi chi sta in segreteria, chi fa l'assistenza tecnica nei vari laboratori e poi bidelli, come si chiamavano una volta. Ripeto, ci hanno cambiato spesso il nome, ma la sostanza poi è cambiata poco. Per esempio, io che lavoro da più di 35 anni mi chiamavo in un modo quando ho cominciato, a metà mi hanno cambiato nome, adesso sono assistente amministrativa. Allora, nella Spending Review già c'era questo provvedimento nei confronti dei docenti e delle docenti inidonei e inidonee. Di che si tratta? Si tratta di docenti che molto spesso, anche per motivi di servizio, hanno contratto delle infermità che rendono impossibile, a seguito ovviamente di una visita collegiale dagli organi medici preposti, il proseguimento dell'attività di insegnamento, che non è poi così di tutto riposo come qualcuno vorrebbe far pensare. E pensiamo soltanto a un maestro o una maestra che insomma quotidianamente si trova ad avere a che fare con una trentina di ragazzini nella scuola dell'infanzia dai 3 ai 6 anni e nell'elementare dai 6 ai 10. E questi docenti vengono poi appunto sottoposti a visita, e in caso che l'inabilità sia totale va bene, c'è tutta una procedura, ma se questo non è, vengono destinati ad altri compiti. In genere venivano assegnati alle scuole in attività che potevano essere principalmente le biblioteche, che dovrebbero essere anche una parte insomma importante, fondamentale, delle scuole di ogni ordine e grado, nelle videoteche o anche a progetti particolari, con un inquadramento che rimaneva quello del docente, e con ovviamente la retribuzione conseguente, poi con un orario di servizio che diventava quello del personale ADA, quindi 36 ore settimanali, ma questo perché tutte le altre attività che sono dietro alle 18 ore o alle 23 per quanto riguarda la scuola elementare ovviamente non venivano più espletate. Bene, con la spending review il governo ha deciso, per risparmiare ovviamente, di destinare quelli che potevano ancora svolgere un altro incarico alle segreterie, oppure a seconda del loro titolo di studio, nei ruoli degli assistenti e delle assistenti tecnici. E questo perché dicevo prima dello stacco musicale che questo in un colpo solo danneggia sia questi docenti e queste docenti, sia il personale delle segreterie o tecnico, perché ovviamente tutto questo personale che dovrebbe essere immesso, e a quello che ci risulta già stanno cominciando ad essere prodotti i contratti da parte di quello che una volta si chiamava provveditorato agli studi, cioè dell'organo provinciale del Ministero dell'Istruzione, e quindi questa cosa sta, nonostante le proteste, diventando, ci sembra, operativo, come ci è stato segnalato anche insomma da alcune segreterie che si sono viste arrivare questi contratti, queste persone titolari di questi contratti, perché innanzitutto queste persone vengono poi inquadrate nei ruoli del personale ATA, lo stipendio per legge non può essere diminuito, ma poi tutta la carriera ovviamente diventa quella del personale ATA, quindi con disprezzo assoluto di quello che sono le competenze professionali di questo personale, che potrebbe essere impiegato come è stato finora in altro modo. E questo poi è un danno enorme per il personale delle segreterie, soprattutto per il personale precario, perché i posti che potrebbero essere coperti sia con incarichi annuali che poi magari con immissioni in ruolo vengono dati a questi e queste docenti, e quindi vengono sottratti a personale che avrebbe titolo, che magari sta aspettando da anni di poter accedere in queste graduatorie più o meno permanenti a questi posti, e poi magari di poter essere stabilizzato. E c'è anche un altro problema, che quello che poi passa non viene detto, è che magari è un lavoro che può fare chiunque, anche non formato o non formata, e quindi c'è uno svilimento ulteriore di quello che è il lavoro soprattutto del personale di segreteria, che in questi ultimi anni, non ultimissimi, direi che è da quando praticamente si è passati alla scuola dell'autonomia, cioè all'individuazione di ogni scuola come corpo autonomo, quindi una serie di incarichi, insomma di competenze, di lavoro in parole povere, che veniva prima svolto nei provveditorati, in queste strutture provinciali, quindi per esempio le graduatorie del personale supplente, una parte della mobilità, le ricostruzioni della carriera, ovvero il riconoscimento degli anni di precariato per avere poi l'effettivo livello di inquadramento nella carriera corrispondente, sono state le pensioni, sono state via via attribuite alle segreterie, senza che a questo abbia corrisposto, ovviamente, cioè, mancherebbe altro, un aumento dell'organico, ma anzi una diminuzione nei fatti dell'organico, con tagli che aveva cominciato il ministro Gelmini in maniera così assolutamente anche a volte casuale, cioè ti spettano 8 assistenti amministrativi, io d'imperio decido che te ne spettano 7 e così via. Quindi è un danno anche in questo senso, perché ti vieni a trovare poi nelle segreterie persone non motivate, non perché noi lo siamo tantissimo a questo punto, noi che ci lavoriamo da anni, ma insomma comunque giustamente non motivate per questo tipo di lavoro, e si sottrae poi si sottraggono posti al personale che ne avrebbe diritto, che fra l'altro quest'anno, a fronte di posti più o meno vacanti, ovvero sia posti privi completamente di titolare, sia posti vacanti perché il titolare si trova magari in comandi o in altre funzioni, e quindi sono stati nominati e nominate finora quest'anno fino a nomina dell'avente diritto, proprio perché si aspettavano i contratti di questo personale. Già questo fatto fra l'altro era successo l'anno scorso, quando erano stati immessi in ruolo a seguito del concorso interno per esempio moltissimi ausiliari, e quindi pure questa situazione si era creata, per cui chi era stato fino a nomina dell'avente diritto fino, mi pare, poi a anno solare, non anno scolastico, molto molto inoltrato, si sono visti poi senza posto, perché questi posti sono stati destinati a quest'altro personale. Tra le cose, ma giusto una nota a margine, mi ha molto colpito, io lo vedo dall'esterno, sono un insegnante, ma tra le vari elementi che credo abbiano contribuito a gravare notevolmente il lavoro del personale di segreteria, c'è una cosa che a me pare molto buffa, cioè, se non capisco male, le procedure di identificazione delle persone che vogliono iscriversi al concorso, che sono fatte a carico sostanzialmente delle segreterie. Questo sinceramente buffo, perché ci viene in qualche modo millantato il fatto che tutte le procedure sono informatizzate, che si fa tutto via rete e che è tutto dematerializzato, ma in realtà quello che forse molti non sanno è che c'è necessità di un passaggio attraverso le segreterie, e quindi il personale di segreteria, in ragione dell'esigenza di chi anche legittimamente vuole farsi identificare per iscriversi a una selezione pubblica, deve interrompere il suo lavoro e procedere a questa cosa. È un lavoro breve, però è un lavoro frammentario che viene fatto sempre e comunque a costo zero, ed è importante al di là di questo e oltre questo sottolineare, perché forse non è nella sensibilità di tutti, il fatto che esistono graduatorie di personale, di persone che sono in attesa di essere chiamate per un incarico di segreteria, esattamente come esistono graduatorie di insegnanti, e che i numeri sono numeri anche importanti, e che questo personale, immagino, sarebbe molto motivato a lavorare, avrebbe la competenza di lavorare, e questo personale ha retto, credo, le segreterie in passato, così come gli insegnanti precari hanno retto le scuole in passato, e che adesso queste persone si vedono preclusa una possibilità di stabilizzazione. Sì, poi si tratta di personale veramente che ha acquisito una competenza, forse è difficile per noi spiegare che cosa significa operare a livello amministrativo dentro la scuola, perché c'è un corpo di norme, di leggi che è veramente immenso, e noi lavoriamo spesso, e io qui non mi faccio problemi a dirlo, perché non è che sto criticando altri lavoratori o lavoratrici, perché ecco, è sotto gli occhi di tutti e tutte che in tutte queste mobilitazioni i direttori, adesso si chiamano direttori non più segretari, no? I capi delle segreterie delle scuole, di SGA, direttori dei servizi generali ed amministrativi, questo appunto te via il fiatone solo a dirlo, per non parlare dei dirigenti che si stracciano le vesti quando si tratta di fare proclami così all'acqua di rose sulla centralità della scuola, però poi di fatto potrebbero scioperare, per dirne una, ma se ne guardano bene, almeno nella stragrande maggioranza. Per cui poi quello che volevo dire è che non c'è una grande competenza né da parte degli uni né da parte degli altri, per cui noi che lavoriamo nelle segreterie lavoriamo magari telefonandoci, scambiandoci conoscenze e con grande fatica, e certe volte veramente ci guardiamo allo specchio e diciamo: ma chi me lo fa fare? Cioè, i nostri stipendi sono veramente pietosi, e invece le competenze che ci si richiedono sono di ben altro livello. La cifra complessiva a livello nazionale di questi docenti inidonei ma destinati ad altri compiti, ad utilizzazione ad altri compiti, è di 3.110 persone. Le disponibilità di profilo, per quanto riguarda solo gli assistenti e le assistenti amministrativi delle scuole, è di 1.960, per cui comunque ce ne sono 1.150 a livello nazionale che poi non si saprà dove collocare, e sono in ogni caso 1.960 posti, che potrebbero non sembrare tanti, ma in questa situazione invece secondo me lo sono, che vengono completamente sottratti a chi da tanti anni magari lavora all'interno della scuola. Sì, mi piacerebbe, diciamo, siamo oramai nella fase conclusiva, mi piacerebbe sottolineare ancora una volta come poi quello che è il nuovo trend che viene imposto alla scuola, sia dal punto di vista della classe docente, sia dal punto di vista del personale ATA e quindi complessivamente a tutto il corpo dei lavoratori della scuola, sia una sollecitazione nella cifra dell'efficienza che già abbiamo richiamato. Un'efficienza che significa lavorare tutti, lavorare tanto, lavorare a parità di stipendio e possibilmente a stipendio ridotto, perché se tu mi aumenti di un terzo l'orario di lavoro di fatto mi riduci lo stipendio, e comunque lavorare di più e sempre in meno. E questo è obiettivamente un attacco importante al mondo del lavoro, e è il primo attacco che viene portato al mondo del lavoro nel settore pubblico. Questo è, a mio modo di vedere, solamente un primo passo, perché si andrà avanti e si procederà oltre. E sbagliano, mi spiace dirlo, quegli insegnanti e quei docenti e quel personale che si ritiene tutelato dall'avere un contratto a tempo indeterminato, perché le cifre del decreto di stabilità sono tali che coinvolgeranno progressivamente anche i docenti di ruolo, anche i docenti di ruolo che già, mi pare di capire, saranno chiamati, se passerà il decreto di stabilità, a svolgere le loro mansioni probabilmente su più plessi, su più sedi scolastiche, in nome sempre della già citata efficienza a cui gli insegnanti si sentono in dovere di adeguarsi. Sì, adesso ancora un pochino di musica da un cattivo maestro, Johnny Cash, e poi passiamo ai saluti, ripetiamo i nostri appuntamenti. And I saw and behold a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing, multitudes are marching to the big kettle drum, voices calling, voices crying. Va bene, siamo costrette a sfumare questa meravigliosa canzone perché il tempo stringe. Volevamo ricordare che comunque questa segnalazione è anche volta a cercare di mobilitare un po' il personale non docente delle scuole su questo problema di cui abbiamo parlato adesso, parte dall'Istituto Cine TV Roberto Rossellini, già qualche scuola ha dato la sua adesione, sta comunque girando nella posta elettronica delle scuole, insomma speriamo che si possa arrivare a un momento unitario anche con queste docenti e docenti. Ripetiamo allora tutti i nostri riferimenti. https oradibuco.noblogs.org, la mail oradibuco@ondarossa.info. Eh sì, allora noi ci diamo appuntamento a martedì prossimo alle 16, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa.